sto parlando di Miss Kaneki, non la solita Under My Skirt, sicuramente intrigante nel titolo, ma anche nel testo, ma anche nel suo incedere, per andare a scegliere invece proprio il brano che dà il titolo al suo album d'esordio su Alpha South Records, ovvero sia Collision Time. 29 anni di Stoccarda, quindi un esordio non in tenerissima età, il tutto accompagnato solo da una chitarra, qualche effetto elettronico e poche note di un pianoforte da piccolo club. Queste sono le tracce di Miss Kaneki e questa è la traccia che ha aperto la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, che prosegue con il tentativo di creare un'atmosfera natalizia per le feste che si avvicinano, con i limiti che Eclettica può avere. Ieri abbiamo iniziato in questo con un incipit di Charles Dickens ed oggi proseguiamo con il quarto album per il quinto anno di seguito, mi stavo sbagliando nel conto, che esce per Asthmatic Kitty da parte di Sufjan Stevens, Songs for Christmas. Questo è il quinto episodio della serie dedicato alla pace, Peace. Noi ci ascoltiamo la traccia che ha per titolo Sister Winter. I've begun to worry right where I should be grateful, I should be satisfied. Oh, my heart, I would clap and dance in place with my friends I have so much pleasure to embrace. But my heart is returned to Sister Winter. But my heart is as cold as summertime, when I kissed your ankle, I kissed you through the night. All my gifts I gave, everything to you. Your strange imagination, you threw it all away. Now my heart apologize. se mi accadrà di essere io stesso l'eroe della mia vita, o se questa parte verrà sostenuta da qualche altro, lo diranno queste pagine. Per iniziare la mia vita proprio dal principio, ricorderò che nacqui, così mi hanno informato e così credo, un venerdì, a mezzanotte. Si notò che il pendolo prese a battere e io a strillare, simultaneamente. Tenuto conto del giorno e dell'ora della mia nascita, la levatrice e certe discrete comari del vicinato che si erano vivamente interessate di me vari mesi prima che ci fosse possibilità alcuna che facessimo una personale conoscenza, dichiararono, primo, che ero destinato nella mia vita alla sventura e, secondo, che avevo da prerogativa di vedere fantasmi e spiriti. Doni, questo, l'uno e l'altro, che vanno inevitabilmente legati, come esse credevano, a tutti gli infelici pargoli dell'uno e dell'altro sesso che nascono nelle ore piccole della notte del venerdì. Non è necessario che dica altro qui, sul primo punto, giacché nulla meglio della mia storia potrà mostrare se questa predizione fu confermata o contraddetta dagli avvenimenti. Questo era l'incipit di David Copperfield, di Charles Dickens. Denominato The Blow da Paper Television, che esce per Tom Lab, ci siamo ascoltati questa Parenthesis, direi bel ritornello, di quelli che rimangono in testa. Emmanuel Santaromana è l'artista su cui stiamo per tornare, quindi stiamo parlando di cover dei Beatles. Ci siamo ascoltati veramente tante volte nelle prime settimane di questa stagione di Eclettica, quel disco Fab Forever con l'estratto Back in the USSR. E nel frattempo siamo stati raggiunti anche da un'opera di George Martin e figlio dal titolo Love, su cui già mi sono espresso. Mi piace più questo approccio in cui le canzoni vengono completamente rifatte, in questo caso in chiave elettronica, anche se in effetti Back in USSR era veramente molto meglio, a mio vedere, per esempio, della Come Together che ci stiamo per ascoltare. Butta la bottiglietta, porca puttana! Dottor, finalmente! Ecco il giorno! È ora che la sto cercando per tutti gli uffici! Cosa vuoi? Ma nessuno le controlla queste macchine del cazzo! Le controllano, dottor, ma si fregano le bici! È naturale! Come ti sbagli! Tanto io è pieno di ladri, eh! Scusi, dottor, che forse all'uso. Ma mi a te, bischero! I've got mountains of problems, they all catch me off guard, so when I'm not looking, they make noise and I'm sleeping. I have mountains of mistakes, they all come back to haunt me. Every fork in the road I didn't take has never once cut me a break. So I'm leaving you for the man in the business suit. Our priorities and views are beginning to skew. Got a new code of ethics, used to think was pathetic. Now I'm reaping benefits out of all my new conquests. Got a new way of speaking, think it's rather ingenious. I'm in a Mamba 3 setup, but unless you really wanna sell my desk. So I'm leaving you, but I'm in the business suit. I think I'm a dream come true. Says I've got nothing to lose, I've got nothing to lose. We'll be right back. avvicinando a passi da gigante anche alla fine della seconda parte di Eclettica di questa settimana. Ci siamo appena ascoltati un ritorno, quello della Spinto Band, Mountains, il titolo del brano per il sestetto che proviene da Wilmington, Delaware. Sto per lasciarvi nelle mani di Erlend Ropstad, però di solito ci ascoltavamo per il suo esordio per la Rag 90, We Know and Die, il brano che apriva questo album, ma noi ci ascolteremo quest'oggi la traccia che lo chiude, Come On Back in the Morning. Però prima voglio ricordarvi velocissimamente i biglietti in palio questa settimana a Giulio at RadioRockFM.com. John Fox il 1° dicembre al Transilvania di Milano, Molteni sempre il 1° dicembre allo Zero Music Club di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo, i Two Gallants il 2 al Covo di Bologna, i Super System il 4 al Transilvania di Milano e l'8 allo Zero Music Club di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo. The bar is closed half an hour ago, not a minute late. My only hope was to crash at her couch. I wouldn't try and start nothing. She said, come on back in the morning. Lonely gets, lonely gets, lonely gets.